Ei, politico, guarda come stappano le cose. Ehi, c'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non ve cosa. Usciamo innanzi così, torniamo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non ve cosa. Usciamo innanzi così, torniamo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. E non mi ha concesso quello che succede mo. Sto mondo va a rovina, lo aiutiamo sempre più ignoranti di quello che succede in c'alle città. Non basta la povertà, pure la violenza c'è mo fare per capire che ne roviniamo soli. C'è cinque spara e poi se spara non conclude niente. E poi sta guerra contro l'Iraq ci sape quando spiccia. Mi pare che è troppo lunga sta storia. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non be' cosa. Usciamo innanzi così, torniamo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non be' cosa. Usciamo innanzi così, torniamo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. Uccidono innocenti e rovinano una famiglia. Le vittime soltanto è la disperata mente. Non c'è nessuno che li ferma. Lo politico guarda tanto vedo indifferente. Lo sordo li gira un po' già. Non c'è più pace, ma stanno giugni e non si sente. Lo venerdì c'è, sta andando tutto con fedele. C'è chi mi dice io stavo non c'è da fare. Pensa di essere questo stato io voglio morire. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non be' cosa. Usciamo innanzi così, tornavo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non be' cosa. Usciamo innanzi così, tornavo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta. Lo stato infame, sapevo quanto tranquillizza le persone. Guardano la finta realtà alla televisione. Ma sono tu falsi, invece molta merda di ragione. A tutto pensa danno alla popolazione. E con vanno, con guardano e con scotano. Tutto quello che i soldati mostra provano. Pensano alla famiglia loro mentre mostra il cagliano. Senza quest'anno, quando giorno può essere l'urgi. C'è troppa guerra in questo mondo, deve c'è la violenza su ogni tipo di specie e non be' cosa. Usciamo innanzi così, tornavo agli vecchi tempi e combattiamo per una cosa giusta.